ragione che ti spinge ad ascoltare un perché. L'emozione che oggi provi a stare qui vicino a me. Il battito leggero lascia scorrere poi il crescendo che trascina l'entusiasmo tra noi. Quando sogni che c'è il sole sei coperto fin qui. Quando pensi al mare sei seduto dentro ad un tassi. Ogni attimo di vita nelle nostre città è un pezzetto di una storia nata molto più in là. Che ti dà la carica che vuoi. C'è una tribù che vuoi ritrovare qui con noi. Ti chiederai se tu questa l'hai sentita già. È una storia che è iniziata molto tempo più là. Se la terra sente che sta già suonando un giambè, mentre l'aria il suo profumo porta sempre insieme a te. Quando il fuoco nella notte il suo calore darà, come l'acqua scorre il ritmo di un tam-tam che dirà. C'è una tribù che ti dà la carica che vuoi. C'è una tribù che vuoi ritrovare qui con noi. Ti chiederai se tu questa l'hai sentita già. È una storia che è iniziata molto tempo di là. C'è una tribù che ti dà la carica che vuoi. C'è una tribù che vuoi ritrovare qui con noi. Ti chiederai se questo ti dà una marcia in più. Sono questi grandi viaggi per tornare tra villaggi e tribù. Grandi viaggi per tornare tra villaggi e tribù.